get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Allora ragazze, speriamo sia stato anche per voi un piacere riascoltare la nostra sigla dopo questa lunga pausa estiva. Ci piace immaginare che eravate in nostra attesa e che aspettavate con ansia la ripresa delle nostre trasmissioni. Tanto lo sappiamo che ci ascoltate e allora eccoci di nuovo con voi e un ciao a tutte. Sappiamo anche che avete sparso la notizia e che oggi, all'ascolto di questa trasmissione, ci sono nuove donne che spero siano meno timide di voi e che ci facciano sentire la loro presenza così come noi stiamo facendo con voi. Poi, a coloro che invece ci stanno ascoltando per la prima volta, grazie ad un caso fortunato di coincidenze, diamo il nostro benvenuto con noi e io sono Caterina e in studio con me oggi c'è Deborah. Prima di ogni altra cosa, volevamo comunicarvi che la nostra email è cambiata perché, ahi noi, ci siamo dimenticate di confermarla e ce l'hanno cancellata. Ma noi siamo più ostinate di un mulo ostinato, per cui ne abbiamo creata un'altra. Pronte con carta e penna? Allora, l'indirizzo è clrbp@hotmail.com. Se non avete fatto in tempo a scriverlo, non vi preoccupate perché più avanti nella trasmissione lo daremo di nuovo. Però, se proprio lo volete sapere subito, telefonateci qui in radio questa sera allo 06 49 17 50 oppure telefonate alla nostra sede in via San Francesco di Sales 1B allo 06 6864 201. Vi ricordo che questo è il numero del Centro Femminista Separatista del Buon Pastore ed è anche un fax oltre ad avere la segreteria telefonica. Nel caso aveste voglia di contattarci, specificate che il messaggio è per noi del coordinamento lesbiche romane. Questo semplicemente perché all'interno del Centro Femminista Separatista operano anche altri gruppi che usufruiscono insieme a noi della stessa sede e dello stesso telefono. Comunque ora basta parlare. Pensavamo di ricominciare gradualmente, quindi mandiamo subito una canzone. Il gruppo è quello delle Sapphire e il brano è Hungry Woman's Blues. Well, I'm a hungry woman. Feed me like I want to be fed. Yeah, I'm a hungry woman. Feed me like I want to be fed. Well, you can feed my body, but you really gotta feed my head. I'm hungry like a dog, like a New York City rat. A school of piranhas or a Venus flytrap. Takes a lot to satisfy me, I'll eat your whole menu. But don't you dare forget, you gotta feed my head too. I'm a hungry woman, feed me like I like to be fed. Yeah, I'm a hungry woman, feed me like I like to be fed. Well, you can feed my body, but you really gotta feed my head. Well, you can feed me chocolate buns, feed me goose pate, feed me nuts and honey and your seafood buffet. Feed me fresh ambrosia with a whipped cream spread. Make me smack my lips, but don't forget my head. I'm a hungry woman, feed me like I want to be fed. You really gotta feed my head. want some flavor in my life. Your tears for my garlic, your sugar for my spice. Simmer, bake and boil it, feed me for my health. Don't want a fast food cook, I want a gourmet chef. I'm a hungry woman, feed me like I like to be fed. Oh, feed me, baby, oh, feed me, baby. I'm a hungry woman, feed me like I want to be fed. Well, you can feed my body, but you really gotta feed my head. Gotta feed me right, baby. I got a healthy appetite, baby. I need a spoonful, a loving spoonful. Bentornate, bentornate alle vacanze. Spero che vi siate divertite e ricaricate, ognuna secondo i bisogni ed i desideri che aveva. Ad esempio, uno dei miei bisogni quando vado in vacanza è quello di entrare in contatto con la comunità lesbica del luogo che decido di visitare, anche se è facile capire come in questo periodo vacanziero i contatti si limitano spesso solo agli aspetti ludici. In fondo anche le militanti hanno diritto al più o meno meritato riposo. Quest'anno sono andata in Spagna. Mare, sole, bellissime città arabeggianti e la Chueca di Madrid. Sembra un po' una propaganda dell'ente del turismo spagnolo, ma vi assicuro che almeno in parte vi sto parlando di movimentismo delle minoranze sessuali. La Chueca è infatti un quartiere di Madrid che ogni lesbica dovrebbe prima o poi visitare per sentirsi almeno per un po' in pace con il mondo. Non troppo però, potreste quasi convincervi che una lotta che dura da più di 2000 anni stia per concludersi, e questo sarebbe un imperdonabile errore. Allora, provate a prendere la metro a Madrid ed a raggiungere la fermata di Chueca, districandovi nel dedalo delle linee di una grande città europea. Prendete l'ultima corsa, altrimenti, come è nel migliore degli stili spagnoli, vi perderete un grande spettacolo che inizia non prima dell'una di notte. Appena risalite le scale della metro, vi troverete in una graziosissima piazza circondata da palazzi ed affollata di donne e uomini seduti ai tavolini di variopinti disco bar. No, mia cara lesbica italiana, costretta ad una visibilità da gay pride, non è un sogno. Quello che intuisci è proprio vero. Sei davvero capitata in mezzo ad una folla di gay e lesbiche che alla luce del sole, anzi della luna, ridono, si baciano, si abbracciano e si godono una visibilità che purtroppo in Italia è ancora impensabile. Non solo, tutto il quartiere è prevalentemente abitato da gay e lesbiche e nei vicoletti che lo caratterizzano spuntano come funghi ristoranti, discoteche e bar in cui un gay o una lesbica non si definirebbe parte di una minoranza sessuale nemmeno per scherzo. Ma aspettate, non vorrei darvi l'impressione di una riserva indiana. Il quartiere dei locali sono anche frequentati da eterosessuali che apparentemente non hanno, o forse dovrei dire non sono oggetto di, alcun pregiudizio. D'altra parte, dobbiamo dare credito alla frase stampata sulla mappa gay e lesbica di Madrid, strumento fondamentale che potete trovare in ogni locale della Chueca. La popolazione di Madrid non ha atteggiamenti ostili verso gli omosessuali. Ora, se è vero che il percorso di affermazione delle minoranze ha come tappe temporali obbligate la sequenza 1. Clandestinità. 2. Creazione di comunità forti e visibili. 3. Caduta dei presupposti culturali che ne fanno una minoranza. Dobbiamo dire che i gay e le lesbiche di Madrid hanno superato con onore almeno le prime due e quindi sono anni luce in anticipo rispetto all'Italia. Già, ma perché? La Spagna è latina e cattolica quanto se non più dell'Italia. Com'è possibile che noi lesbiche italiane, con o senza i gay, non siamo ancora state capaci di creare una nostra Chueca? La risposta è ardua e dolorosa e meriterebbe una profonda riflessione collettiva. Il primo passo, quello della clandestinità, l'abbiamo sicuramente fatto e solo la Dea sa quanto ci è costato e ci costi. Intendiamoci, qui si parla di clandestinità di una minoranza da non contrapporre alle scelte di visibilità individuale, ma ad una più incisiva visibilità collettiva. Ed il secondo passo? Siamo riusciti a creare una comunità, non dico visibile, ma almeno forte, aggettivo da interpretare ovviamente nella sua accezione positiva? Ovviamente no. Una facile risposta potrebbe essere attribuire il nostro insuccesso alle ben note vicissitudini storiche che hanno determinato la frammentazione in cui è vissuta fino al secolo scorso la nostra nazione. Un'Italia divisa in stati e staterelli, perennemente in guerra, fa sì che la sua popolazione non sia geneticamente orientata ad entrare in contatto positivamente con le differenze e quindi a gestirle come arricchimento e non come elemento di divisione. No, troppo facile come risposta, e poi dovremo prima o poi scrollarci di dosso una così pesante eredità. Siamo o non siamo nel 2000 e per di più in Europa? Io credo che in realtà, finché tenteremo di integrarci nella società attuale e non di combatterla culturalmente, continuerà a sfuggirci la necessità e la volontà di creare una comunità unita, forte e visibile. In altre parole, il secondo passo non sarà mai realizzabile se continueremo a perdere di vista il terzo, ovvero se tutte le lesbiche impegnate politicamente non capiranno che l'obiettivo non è la legge o la leggina che meglio ci integra nell'eterosocietà, ma uno ed uno soltanto, far cadere i presupposti culturali che fanno delle lesbiche una minoranza in perenne sofferenza. Comunque, anche se vi e mi sembra meramente consolatorio, al vostro posto un giretto nella cieca io me lo farei. You broke, girl. capito il messaggio? Era la Pina con Fly Pina. Salve, sono di nuovo Caterina ed oggi volevo parlare con voi di un film che sono andata a vedere qualche tempo fa. Si tratta di La Vespa e la Regina di Antonello De Leo. Sono andata a vederlo perché avevo visto i trailers e mi era sembrato, insomma, buono. Poi, ad essere proprio sincera, la cosa che mi ha invogliata di più è stata il fatto che sembrava divertente. Caratteristica questa molto difficile da trovare in presenza di tematiche lesbiche. Sempre più spesso, infatti, è quasi una costante evidenziare tinte lugubri, tristi e cupe, se non addirittura psicotiche, perverse o demoniache, quando si visionano film lesbici. Film lesbici, chiaramente, scritti da chi lesbica non è. È veramente difficile uscire da una sala cinematografica piena di allegria e speranza ogni volta che si vede una pellicola dove anche semplicemente due personaggi di secondo piano del cast o le protagoniste sono lesbiche. Ricordo infatti Butterfly Kiss, dove la figura della lesbica era una psicotica che non disdegnava affatto trucidare gli uomini tagliandoli poi in pezzi. O ancora Il Pozzo, dove la presunta lesbica è una donna frustrata che si macchia dell'occultamento di un cadavere di un uomo per amore della donna che l'ha ucciso e, come se questo non fosse già abbastanza pesante, l'hanno fatta anche zoppa. E potrei continuare all'infinito. Insomma, c'è di che disperarsi davvero. La Vespa e la Regina sembrava diverso. Il film in questione è ambientato in un contesto gay e lesbico, dove sembrava che nessuna fosse un'assassina e sembrava che nessuno avesse problemi a riconoscersi omosessuale. Anzi, la protagonista femminile faceva parte di un complesso musicale che aveva l'ambizione di pubblicizzare e mettere sul mercato della buona musica lesbica. Il protagonista maschile aveva invece fondato un giornale gay sul quale scriveva articoli. Bene. I buoni presupposti c'erano tutti. Infatti il primo tempo è stato delizioso e ha risposto alle mie aspettative. Si sono succedute gag divertenti, battute esilaranti e il tutto si svolgeva in ambienti normali. Lui viveva in casa con i suoi che spesso si trovavano in imbarazzo, soprattutto quando ricevevano telefonate per il figlio o quando lo vedevano con i bigodini in testa o quando, entrando nella sua stanza, osservavano i poster di uomini bellissimi e famosi sapendo che la foto con dedica chiusa nell'armadio del figlio era di un suo amante. Lei viveva da sola, non disdegnava le avventure che le si presentavano, guidava una moto di grossa cilindrata e frequentava un circolo lesbico. Oddio, se volessimo andare ad analizzare proprio tutti i peli nell'uovo, potremmo dire che forse era un po' troppo stereotipato e rispondeva a dei cliché il suo personaggio, ma tutto sommato non sembrava poi così grave la cosa. Verso la fine del primo tempo, la figura della nonna di lui comincia ad assumere un ruolo determinante. Infatti, è grazie alla promessa che estorce al nipote, quella di provare a far l'amore con una donna come regalo prima che lei muoia, che il film cambia tono. Lui, sentendosi vincolato da quella promessa, si vede costretto, suo malgrado, a cercare una donna. Lei, irritata dal fatto che la donna con la quale ha una storia non riesce a mollare il marito manesco, una sera, credendola in pericolo, la raggiunge a casa sua e la scopre a letto con il gentil consorte. Oltre a rimanere profondamente offesa da tale situazione, dialogando con una sua amica, confessa che non era mai stata con un uomo e quasi per scommessa decide di provare. Anche lei, dunque, vincolata da quella scommessa, è alla ricerca di un uomo con il quale fare questa prova. Per una serie di circostanze strane, i due si incontrano, entrambi mascherati, lei da donna fatale, lui da macio incallito. Inutile dire che i loro rispettivi vincoli li portano a pensare che hanno trovato il soggetto giusto per risolvere il loro problema. Finiscono infatti a letto insieme, ma la situazione ancora non sembra precipitare perché lui, chiudendo gli occhi, sogna di stare tra le braccia del suo amante. Lei, chiudendo gli occhi, immagina di stare con la sua compagna. Ciò che è passato nella testa del regista da qui in poi è quanto di più deprimente si possa immaginare. Alla fine, infatti, lei rimane incinta, scopre di amare lui, rinuncia alla sua carriera artistica e decide di fare la mamma. Dal canto suo, lui capisce che non è più gay, scopre che gli piacciono le donne tanto da eccitarsi al solo guardarle, tralascia sempre più spesso il giornale e chiede a lei di sposarlo. Insomma, entrambi si ravvedono. Il film finisce con loro due che escono dalla chiesa nella quale sono convolati a giuste nozze. Che dire. Sono uscita dal cinema ancora confusa, però man mano che ci ripensavo mi arrabbiavo sempre di più. Non perché pensi che una cosa del genere non possa accadere davvero, per carità, un attacco di pazzia può sempre prendere chiunque. Però i messaggi che mandava il film erano in sostanza questi. Non abbiate paura, potete anche voi guarire, oppure dipende tutto dall'incontro giusto. E ancora, la maternità può essere la condizione ideale per una redenzione. In definitiva, la morale di questo film è: ogni persona ha la possibilità di migliorare cercando dentro di sé la voglia di cambiare. Ogni persona può, se vuole, cambiare la sua vita perché a tutti si presentano le opportunità giuste. Se poi una insiste a voler rimanere dov'è e soprattutto com'è, beh, allora sei proprio malata. Per anni mi sono sentita di ripetere che ero lesbica perché non avevo incontrato l'uomo giusto. Inoltre ho sempre sostenuto che non voglio avere figli. E, francamente, dubito che le lesbiche che decidono di procreare abbiano come motivazione quella di redimersi e sentirsi finalmente donne davvero. Anche perché non mi risulta che nessuna di loro abbia poi deciso di crescere la creatura insieme a un uomo. Ma c'è un altro aspetto della morale che passa in questo film che mi irrita più di tutto il resto. Il protagonista maschile, nel confessare pubblicamente il suo amore per una donna, afferma più o meno: spero vogliate accettare ancora la mia collaborazione al giornale, perché uno come me, che la diversità l'ha vissuta due volte, può esservi vicino più di quanto immaginiate. Il messaggio che passa è che il mondo gay e lesbico è chiuso, praticamente un ghetto. Una volta che ci sei entrato, un po' come per la mala o per la droga, è praticamente impossibile uscirne se non a prezzo di pagare una doppia diversità. Insomma, noi lesbiche, secondo la Vespa e la Regina, abbiamo un codice così rigido e con delle sanzioni sociali e psicologiche così dure che, per chi ci è cascata dentro, è quasi impossibile tornare indietro. E a sostegno di quanto esprime il film per promuovere l'eterosessualità un tempo obbligatoria, scende in campo la Chiesa sostenendo che, se si vuole, ci si può redimere e che la volontà può vincere il vizio. Notizia passata sui TG nazionali, a dispetto delle affermazioni di Arcigay Nazionale che lo bolla come un falso culturale. E voi che ne pensate? Chiunque conosca casi analoghi, e cioè vicende vissute da gay e lesbiche doc che insieme si redimono, ce li segnalino, ne prenderemo nota per pubblicare un libro bianco sulle costrizioni di fine secolo. Ai ai ai ai, l'omosessualità obbligatoria. Riprendiamo il nostro consueto appuntamento con la musica lesbica indipendente e non potevamo che riprendere con Le Chicche e la Luna, una nostra vecchia conoscenza. Fra poco andremo ad ascoltare Fly, per rimanere in tema con la nostra rapper Lapina. Vi ricordiamo che il brano che sentite in sottofondo sul parlato è sempre delle Chicche e la Luna e si intitola Sin Palabras. Stone every tree, what I am, what I do, what I'm living for, what wanna say what I'm saying to you. I create, I destroy, I'm lit up again. Is it least I know? Declaration of love. Fly with me to the moon, I'm back around the earth, the universe. Follow you to every country, climb a mountain with my love. Wonder if I ever find a way to trust the love in me. Just like in the dance of love, we share our way. Vi ricordo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane nell'ambito dello spazio femminista autogestito sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Gli appuntamenti. Si terrà a Pisa dal 20 al 24 ottobre la 21esima conferenza europea dell'ILGA, la International Lesbian and Gay Association. Ospitata dal circolo Arcigay Pride, la manifestazione è il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero per le Pari Opportunità e della Regione Toscana ed è promossa in Italia da Arcigay e Arcilesbica. La sezione europea di ILGA è nata con lo scopo di promuovere i diritti delle lesbiche e dei gay all'interno dell'Unione Europea e durante la conferenza di Pisa verrà discusso il programma per il 2000, che prevede, tra le altre cose, la costituzione di una commissione che elabori delle proposte per l'effettiva applicazione dell'articolo 13 e che segnali all'Unione Europea gli episodi e le leggi discriminatorie esistenti nei paesi che ne fanno parte. Tra i vari appuntamenti della conferenza, che speriamo non si limiti alla solita e dal nostro punto di vista male impostata discussione sui diritti civili, Vi segnaliamo per mercoledì 20 ottobre alle 18.30 presso il Royal Victoria Hotel il Women Meeting, ovvero una riunione dedicata alla discussione tra sole donne. Per maggiori informazioni potete consultare il sito www.gay.it/pisa1999/indice.htm. Si è conclusa la prima fase della campagna di visibilità promossa dal Forum delle Lesbiche tramite l'affissione di manifesti effettuata durante l'estate nelle città di Firenze, Pistoia, Siena, Napoli, Catania, Reggio Calabria, Palermo, Bologna, Roma, Milano e Trieste. I risultati della campagna, che ha previsto in alcune città anche la realizzazione di dibattiti pubblici, sono stati valutati positivamente dalle organizzatrici. Si procederà quindi con una seconda fase realizzata tramite l'affissione di alcune migliaia di manifesti rimasti. L'ultimo appuntamento con il forum si terrà alle 16 del 25 settembre a Bologna presso il Cassero e verrà seguito da una cena. Per ulteriori informazioni il telefono fax è 055 67 1298. L'email è gaylesbica.fi@agora.stm.it. Il 9 novembre sarà il giorno internazionale contro il fascismo e l'antisemitismo. Nel manifesto informativo, che ricorda graficamente le stelle ed i triangoli apposti dai nazisti sulle divise delle minoranze che hanno sterminato, viene ribadita l'assoluta necessità di combattere il fascismo, l'antisemitismo, l'omofobia ed il razzismo. Per informazioni, United for Intercultural Action, email united@non-profit.nl. Un grandissimo grazie a Lucilla, che ha collaborato in maniera direi quasi determinante per la realizzazione di questo articolo che si intitola Stampa femminile. È incredibile constatare quanto sia dozzinale la cosiddetta stampa femminile. Le riviste per donne si differenziano quasi unicamente per il tipo di carta o il prezzo, ma il contenuto è praticamente standardizzato. Moda, ricette, suggerimenti per essere belle, pubblicità di prodotti per cosmesi, figli e casa, oroscopi, come conquistare lui in quiz, qualche racconto di vita vissuta e non mancano mai gli articoli sulla salute. La cosa che mi stupisce di più è il tono utilizzato in questi articoli pseudoscientifici, a metà strada tra il dibattito da scuola materna e l'imbonitore di imbecilli prive di cultura. E siccome l'audience è ritenuta poco più che analfabeta, il contenuto, scarsamente scientifico, non ha neanche una sequenzialità logica. Unica preoccupazione è, infatti, convincere le donne che c'è chi pensa al loro benessere. In questo modo si può continuare ad espropriarle del corpo e della mente. Proprio questo mi è capitato di ritrovare all'interno di un articolo sulla menopausa a firma di Andrea Divo su Donna Moderna di settembre. Il titolo era questo: Menopausa, le nuove cure. Il presupposto è che la menopausa sia una malattia da curare e quindi giù statistiche sull'unico modello di riferimento culturale a cui ispirarsi, aperte le virgolette. Ma se tutte ormai sanno che la carenza di ormoni può dare i disturbi, pochissime corrono ai ripari. Negli Stati Uniti, e te pareva, il 34% delle americane chiedono al ginecologo una terapia ormonale. Da noi arriviamo appena all'8%, chiuse virgolette, spiega sconsolata Gianna Schelotto, psicologa e sessuologa, che si lamenta del fatto che le donne italiane, sanamente dico io, riescono ancora a scegliere terapie naturali. La Schelotto, quale novità, agita astutamente lo spauracchio di malattie catastrofiche come tumori al seno o all'endometrio uterino. E non si documenta su alcuni studi pubblicati che, ahimè, dimostrano proprio il contrario. Ma torniamo all'articolo. La soluzione c'è ed è costituita da un gel miracoloso, aperte virgolette. Fino a qualche tempo fa la terapia ormonale si poteva fare in due modi: prendendo pillole o applicando sulla pelle i cerotti transdermici. Ma le prime sono facili da dimenticare, le pillole, e i secondi troppo visibili, specialmente d'estate in costume. E a volte causano anche fastidiose allergie. Per evitare questi problemi, da qualche mese si può anche ricorrere al gel cutaneo. È una pomata trasparente a base di estrogeni, contenuta in un comodo dosatore che ne sparge sulla pelle la quantità giusta, spiega il dottor Del Pup. Non unge, non irrita e si assorbe subito. Si usa ogni giorno insieme ad una pillola di ormoni progestinici. Con il gel la cura sostitutiva ormonale diventa più comoda e i risultati sono uguali a quelle del cerotto, chiuse virgolette. Cioè, praticamente la cura consiste in un gel e in una pasticca. Ma allora, la pillola si scorda oppure no? E poi il gel, ah sì, ecco, forse contiene fosforo? Sì, fosforo per ricordarsi di prendere la pasticca. Un avvertimento, l'ultimo. Attenzione alle riviste femminili e soprattutto attenzione a quanto sostengono i medici ed esperti a proposito della salute delle donne. Famosissime Gertrude Stein ed ed è un assaggio delle Zazzi con She's Mine. Per consolare coloro che temono la lesbian bad death, ovvero la caduta del desiderio tra le coppie lesbiche, che tradotto letteralmente al significato spettrale di morte del letto lesbico, è nato addirittura un sito che elenca tutte le coppie lesbiche dotate di un certo grado di notorietà e che hanno condiviso la vita per numerosi anni. Peccato che la prima pagina del sito www.geocities.com/West Hollywood/AIDS/2521 inizi proprio con l'appello di Barbara Jordan, che vuole essere contattata da coppie che stanno insieme da più di 10 anni per uno studio sulla sessualità. Non è che in realtà cerca proprio testimonianze sul come e se si riesce a superare la lesbian bad death? Comunque sia, noi eviteremo accuratamente di esprimere qualsiasi opinione sull'esistenza o meno della lesbian bad death. Sapete com'è, il dibattito è aperto e poi su certi argomenti nessuno di noi vuole che chi ci ascolta pensi che ne abbiamo esperienza diretta. Allora, nella nutrita lista pubblicata sul sito troviamo la fotografa di fine 800 inizio 900, Alice Austin, e la sua compagna Gertrude Tate, con più di 50 anni di vita insieme, vissuta in semipovertà fino a quando, ovviamente in punto di morte, non venne riconosciuto il genio di Alice. Sono seppellite insieme in un cimitero francese dopo 40 anni di vita in comune Natalie Micas e la pittrice Rosa Bonheur, che vestiva da uomo in maniera così convincente da ottenerne il permesso nel lontano 1857 tramite un certificato rilasciato dalla prefettura di Parigi. Nello stesso cimitero, e sempre dopo ben 40 anni di relazione, riposano anche le famosissime Gertrude Stein ed Alice B. Toklas, battute di 2 anni da un'altra coppia storica formata da Marguerite Yourcenar e Grace Frick. Rispetto a loro, la poetessa Amy Lowell e l'attrice Ada Dwyer sembrano principianti con i loro 11 anni di relazione, ma è simpatico ricordarle perché la carriera di Amy è iniziata dopo che aveva assistito ad uno spettacolo di Leonora Duse, per la quale ha infatti scritto il suo primo poema. Ci sono poi i 30 anni delle scrittrici Sarah Jewitt e Annie Fields, ma su di loro il dibattito è aperto, perché importanti lesbo-femministe come Audre Lorde hanno inquadrato il loro rapporto più come amicizia e solidarietà tra donne che come effettiva relazione d'amore. Stesso discorso sull'amore platonico per i 25 anni di Sophie Elkan e la scrittrice svedese Selma Lagerlöf, vincitrice nel 1909 del premio Nobel per la letteratura. Non ci sono dubbi invece sulla relazione di 52 anni tra la studiosa della Bibbia e preside di college Mary Woolley e la sua ex allieva Jeanette Marx. A partire dai loro 42 anni di vita insieme, tentano di superare qualsiasi record le jazziste afroamericane Tiny Davis e Ruby Lucas, protagoniste anche di un documentario a loro dedicato. Altra coppia storica è quella, fiera della propria visibilità, nonostante nel secolo scorso non dovesse essere proprio così facile, composta da Mary Ann Wilson e Sarah Brundage, che ha ispirato il famosissimo libro Patience and Sarah. 30 anni possono vantare anche Redcliffe Hall e Lady Una Troubridge, ma non devono essere stati molto sereni, visti i contenuti e gli stati d'animo espressi nel libro Il Pozzo della Solitudine. Allora, vi sentite un po' meglio? Ed il vostro letto lesbico è vivo o morto? Get a good feeling, yeah. Yeah. I get a feeling that I never, never, never, never had before. No, no. Yeah. Avete ascoltato? È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.